luce di fuori e noi tutti siamo dentro. L'acciaio del cemento armato si nasconde. È come lui fu coi casa. Tra amici si fa guerra sopra piani colorati, carri armati finti sparando a di fortunati. E la vittoria a caso. Finita tra una birra e la noia, ho perso stavolta, ma il caso comanda. Cambiamo il gioco, andiamo a letto, è luna di notte e bruciano gli occhi. Siamo in vacanza e non c'è niente da fare, brutto tempo e una noia mortale. È luna di notte, che cosa facciamo? Ricominciamo! E trattative, chi si prende le stazioni, la est e la centrale sono sempre le migliori. E sono soldi a vagonate. Mettiamo su un albergo insieme a quattro case, conquistiamo il mondo come tutte le sere. E bravo il nostro pro. Tra una birra e la noia, ho perso stavolta, ma il caso comanda. Cambiamo il gioco, andiamo a letto. Sono le tre di notte, bruciano gli occhi. Siamo in vacanza, non c'è niente da fare. Brutto tempo e una noia mortale. Sono le tre di notte, che cosa facciamo? Lo ricominciamo. Ricominciamo.